E ben ritrovati in studio, oggi siamo qui per presentare l'ultimo spettacolo della rassegna Altri percorsi all'Ostignani. Stiamo parlando dell'evento Gramsci Gay, il cui unico interprete è appunto Mauro Lamantia, che interpreta proprio Antonio Gramsci, con cui ho il piacere di presentarvi questo spettacolo. Quindi buon pomeriggio Mauro. Buon pomeriggio a te, a tutte e a tutti. Allora, evento che si terrà il 10 aprile al Teatro Ostignani di Imola dalle 21. Ti chiedo Mauro, ma dici un po', ecco, perché scegliere appunto questo titolo e quindi di che cosa parla in generale l'evento? Guarda, il perché è perché ci diverte e perché fa arrabbiare qualcuno e incuriosire altri. In pratica non c'entra nulla con la sessualità di Gramsci, ma è semplicemente un gancio al fatto che lo spettacolo tratta nella prima parte un Gramsci giovane, 29enne, che parla con gli operai e le operaie all'indomani di uno sciopero fallito, e nella seconda parte invece raccontiamo la storia di finzione di un vandalo che però realmente ha imbrattato un murale con la faccia di Gramsci a Turi in Puglia, sì, scrivendo gay sulla fronte di Gramsci stesso. Quindi ecco, queste due parti le mettiamo insieme nello spettacolo, io interpreto entrambi i personaggi e creiamo un cortocircuito fra il passato ed il presente. Esatto, tra l'altro spettacolo creato in collaborazione con Jacopo Gardelli e Matteo Gatta, appunto regia di Matteo Gatta, e ti voglio chiedere, ma perché questo spettacolo è così attuale? Cioè, io l'ho letta un po' la locandina e è veramente interessante perché spiega anche questo scollamento tra le nuove generazioni e la cosa pubblica, l'interesse alle cose pubbliche. Prima di tutto grazie che hai nominato i miei due altri collaboratori fratelli, che sono Jacopo Gardelli, drammaturgo, e Matteo Gatta invece il regista, e Mattia Sartoni invece alle foniche, okay, e alla tecnica, perché senza di loro, soprattutto senza la direzione di Matteo, io non avrei mai potuto raggiungere il livello di grande soddisfazione anche personale di questo spettacolo, che per me è importantissimo. Ma detto questo, per rispondere alla tua domanda, io cercherò di essere il meno personale possibile, ma non ci riuscirò. Certo. Quando io ho incontrato Gramsci, la mia vita è cambiata. Sì. Credo che noi non tributiamo a questo pensatore enorme il grande elogio che dovremmo tributargli, semplicemente perché guardiamo quello che succede fuori in questo momento. Mm-hmm. Accendiamo la televisione, accendiamo un cellulare e vediamo un mondo che ci pone delle domande tremende, delle mm-hmm. questioni difficilissime. Credo che cercare di rispondere a queste questioni così dolorose lo possiamo fare se ci rivolgiamo prima di tutto a qualcuno che ha riflettuto su grandi questioni come Gramsci, che racconta come possiamo intervenire nella nostra vita quotidiana e nella vita politica della nostra comunità in un modo grandioso, perché ci permette di capire che quando diciamo di essere passivi nei confronti a quello che succede attorno, mm-hmm. ci raccontiamo una grande bugia, una grande balla. E lui ci ricorda sempre che possiamo scegliere in qualunque momento della nostra vita, che sia in una relazione, che sia in una comunità, che sia nella politica del nostro paese. E scegliere significa informarsi, significa rivolgersi alla cultura, che non è stare col culo, perdonerai la parola, no, sulla sedia, tranquillo, a leggere un libro, ma è arricchire l'anima, sì, dare da mangiare alle proprie passioni, non morire prima del tempo, interessarsi, ed essere, certo, svegli in questo mondo e soprattutto trovare qualcuno accanto a noi con cui fare tutte queste cose. La seconda parte dello spettacolo ci mette un po' sull'allerta e ci dice: se non facciamo queste cose, ti ricordi quel quadro che dice il sonno della ragione genera mostri? Certo, sì, come no? Ecco, può succedere quella cosa lì. Non che noi giudichiamo quando questo accada, ma vogliamo riflettere con chi ascolta e con chi viene a vedere lo spettacolo su come oggi certe scelte che non abbiamo fatto, abbiamo fatto, possano essere o meno controproducenti. Esatto, quindi un po' estraniarsi appunto da quello che succede, e appunto con magari gli studi, ecco, le parole di Gramsci poter guardare veramente al passato, ma in realtà interpretare quello che sta succedendo. E quindi io niente, Mauro, ti ringrazio veramente per averci presentato il vostro spettacolo. Io ricordo l'appuntamento venerdì 10 aprile dalle ore 21 al Teatro Stignani di Imola. Per info e biglietti potete consultare il sito www.teatrostignani.it oppure direttamente su Viva Ticket, ci sono ancora appunto le prevendite. E vi aspettiamo, Mauro. Che dici? Guarda, venite a teatro, grazie, grazie esatto. A voi, grazie a te.